Thank you. E a me. Io chiamo con rispondere. Cominciate sempre con la mano forte, la destra per l'esprimere, la sinistra per l'esprimere. Bene, il mignolo e il pollice. condizioni nelle quali c'è un palato alla lingua, ottieni la lingua. Ok? Trasferire il ritmo da uno strumento allo strumento. È molto semplice. Per cui sono contento che ci avete qui, spero che vi siate divertiti. Questi limiti che ci avete passeranno. Non mi maledite, non mi maledite. Per circolazione. Siamo e niente. Se volete tornare anche domenica mattina, domenica mattina ripetiamo. Dopo la messa, una messa così sarebbe molto bene. Prima si fa messa e poi ci si prende la Maria. Prima si fa messa e poi ci si prende la scena. No, a messa padre nostro. Scambiate un segno di pace. Stu! Grazie. Grazie. Può fare anche tu questo? No. Ah, ti è venuto così? No, vabbè. Ah, no, vedi, ti viene così, normale. Ah, cioè. No, vabbè, perché fa cose complicate. Fai b-box? Fai b-box? No. Un po'. No. Ah, vabbè. Vabbè, già sapevi allora. No, perché... È un anno che c'è per il caffè. Dove c'è per il caffè? Per il caffè. Secondo me è complicato, c'è la dentista roba. Facciamo una lente. Non mi impadronare, eh? Fuori, oggi Roberto sta giornato. Io non parlo, oggi non parlo, ma c'è pure oggi che bello le sezioni così. Non mi guardate, mi sono...